Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Buongiorno cari ascoltatori di Radio 24, 8:20 primi 45 secondi qui in diretta dagli studi di Milano della radio. Oggi senza Alessandro Milan, capita anche oggi, un abbraccio ad Alessandro da parte di tutti i nostri ascoltatori. Vedrete, o speriamo che sia con noi lunedì, e naturalmente io tenterò di sostituirlo, sapendo che però non posso concorrere alla piena efficienza, alla sostituzione del vostro cuore. Vabbè, che volete da me? Anche mia moglie si deve accontentare di me, del resto, quindi capita così nella vita. Magari tu, ciascuno che è in ascolto, invece ha realizzato l'ottimum. Io sono sempre una soluzione subottimale, perché sapete che ho la testa dura, ed è un po' così. Allora, il santo del giorno. Il santo del giorno è un santo popolarissimo, perché fin da bambini ci si spiega l'esempio, la carità, con, spesso evocando San Martino. E San Martino oggi si celebra, proprio oggi, l'11 novembre, San Martino di Tours. San Martino era figlio di un funzionario imperiale nel IV secolo in Pannonia, oggi si chiama Ungheria. Si arruola a sua volta nella cavalleria imperiale, presta servizio in Gallia, e da pagano si imbatte un giorno in un povero, e a quel punto gli si manifesta la chiamata, per così dire, attraverso la carità, perché scende a cavallo, si interessa, eccetera eccetera, e spartisce tutto quello che ha, cominciando dal mantello. Il mantello per un cavaliere era fondamentale, come dire, per coprirsi, non come ornamento, e divide tutto. Da quel momento, divenuto cristiano, una vita di esempio, fonda la prima comunità di ascetici, quindi il vero e proprio primo monastero, intorno al 360 d.C., e diventa un punto di riferimento della Chiesa, non solo francese, ma poi mondiale, attraverso il suo esempio di carità. Tra gli altri, vi segnalo che oggi c'è San Menna. Allora, magari quasi nessuno l'ha sentito. San Menna è il santo cristiano di riferimento per tutti coloro che sono cristiani in Egitto, ed è così dal III secolo. Pensate che quando nel 1942-43 fu sventato la conquista dell'Egitto da parte delle armate dell'Asse guidate da Roma, lì i cristiani in Egitto ringraziavano San Menna, e le sue ossa e i suoi resti sono ancora oggi custoditi in una basilica fuori Alessandro d'Egitto, ed è il punto di riferimento nel culto dei santi in Egitto. Di chi oggi festeggiare il compleanno? Ma oggi devo dire attori, attrici, insomma un giorno di felice per chi è nato, si è affermato nel cinema, come Demi Moore, come Alessia Marcuzzi, come Leonardo DiCaprio, insomma non sono proprio tutti sullo stesso livello, come Luca Zingaretti, il nostro commissario Montalbano. Ma fatemi fare auguri controversi anche a chi compie gli anni oggi: Don Livio Fanzaga, il fondatore e direttore di Radio Maria, che a sua volta ha una storia che è divertente ricordare, bisognerebbe raccontare nei particolari, perché pensate, quando lui si trattò di andare in seminario, il suo parroco disse: Livio in seminario, ma neanche per idea, io sono assolutamente contrario, non è all'altezza, è un attaccabrighe, alza la voce, alza le mani, eccetera eccetera. Poi invece andò in seminario, venne all'università a Milano, frequentava antiimperialisti con i quali organizzava manifestazioni contro gli Stati Uniti ai tempi del Vietnam, insomma un tipo un po' particolare, che ogni tanto continui ad andare all'onore delle cronache, perché addita il ruolo di Satana in cose secondo me in cui Satana non c'entra niente, o perché da Radio Maria, come qualche giorno fa è avvenuto, si intervenga come punizione divina il terremoto. Non è stato lui, ma un collaboratore della radio, un domenicano, non stupisce, insomma è un uomo dai pareri taglienti. Comunque auguri anche a Don Livio. Allora, su cosa intervenire oggi? All'800 24 0024 Ve lo dico immediatamente. Ovviamente tutte le opinioni ancora su Trump sono ben accolte. Io adesso vi farò alcuni esempi di alcuni titoli o articoli sulla stampa italiana che mi colpiscono, perché continuano a ribadire il pregiudizio ideologico fortissimo, che non solo ha portato a sbagliare un bel po' di stampa mondiale, quasi tutta quella italiana, ma che continua a essere il criterio con cui la stampa militante inquadra la presidenza di Trump, di cui tutti scrivono paginate intere annunciandovi l'ordine dei provvedimenti che adotteranno, la squadra di governo, le nomine che farà. Nessuno ne sa un cacchio, in realtà. Vi sia ben chiaro che i giornali si avventurano senza avere fonti dirette. Trump non ha parlato con nessuno, neanche con i giornali americani, e però tutti si sforzano di darvi 12 pagine in media oggi, per sapendo ciascuno con certezza che cosa farà. Io mi limito a dire vedremo, ma al di là di questo vi proporrò alcuni esempi di articoli molto carichi di pregiudizio. Io rispetto le opinioni di tutti, anche io le mie, però non so se questo ci aiuterà, quindi telefonate su questo, ma telefonate anche su un altro argomento, perché noi tra pochissimo vi presento il nostro primo ospite. Il nostro primo ospite ha un'opinione netta, e quella è la sua opinione netta che tenta di far valere come parlamentare, essendo il primo firmatario appunto di una proposta di legge in tal senso. È il senatore Ciro Falanga, e il senatore Ciro Falanga dice no al carcere preventivo per i corrotti fino a conclusione del processo. No per coloro che sono indagati di corruzione, autoriciclaggio, per loro non è possibile immaginare il carcere preventivo mentre ci sono le indagini. A me pare un tema, voglio dire, una proposta un po' delicata. Infatti abbiamo chiamato e ce la facciamo spiegare, per così dire. Sarei curioso di sapere come la pensate voi in un paese in cui di condannati con pena passata in giudicato per reati di questo tipo, corruzione, ce ne sono pochissimi, è giusto per garantismo. Io sono un garantista, però di qui a dividere per fattispecie di reato dove sì e dove no la custodia cautelare, a me sembra molto discutibile. E allora vediamo cosa ne pensate voi. Poi nel proseguo della trasmissione ci occupiamo anche della sentenza della Corte Costituzionale che ha aperto alla facoltà di dare cognome anche della madre ai figli appena nati. Il Parlamento su questo ha un disegno di legge all'esame, che però il Senato non ha perfezionato, l'ha votato solo la Camera, e quindi avremo ospiti anche su questo tema. Ma prima fatemi fare solo due brevissimi esempi dei difetti della stampa italiana, per così dire, dei difetti, delle caratteristiche con cui si continua a leggere la presidenza Trump. Allora, per esempio, sulla stampa, prima pagina, Massimo Gramellini, titolo della sua rubrica quotidiana del Buongiorno, l'ignoranza al potere, e inizia dicendo l'ignoranza è una brutta bestia, ecco. Insomma, l'ignoranza è di chi non si vergogna di aver studiato poco, dice il pezzo dell'elettore di Trump, in parole povere, e che adesso vuol fargliela pagare, dice. Già, ma per fargli pagare cosa? Semplice, di aver raggiunto un traguardo che alla sua famiglia è precluso. Allora, ignoranti che votano Trump per farla pagare a chi si è impegnato nella vita? Qui c'è scritto questo, caro Massimo Gramellini. Secondo te sono questi gli elettori? È questa la molla? L'ignoranza? Ok, i titoli di studio sappiamo, quelli più elevati votano. Facciamo votare solo chi ha i titoli di studio elevati? Pare di capire di sì a chi la pensa come te. In più è l'ignoranza amata dall'odio sociale, che però non è contro chi solo ha i soldi, contro chi si è impegnato nella vita, mentre questi naturalmente non hanno meno perché non si sono impegnati, perché sono dei lazzaroni, oltre che ignoranti. Continui scrivendo. L'ignorante detesta chi ha studiato perché detesta una società che non consenta più al suo figlio di farlo, obbligandolo a contrarre debiti spaventosi. E questo può essere vero, è un altro argomento. Allora il conservatore diventa rivoluzionario perché viene invaso dal rancore e va in cerca di un capro espiatorio. E conclude dicendo: ma il capro espiatorio non è la politica, quindi non è ovviamente Hillary Clinton, ma è la finanza. È la finanza. Allora, io lo trovo un concentrato di cose molto discutibili per me. L'ignorante che si vendica su chi si è impegnato, mentre lui no, e che confonde Obama, quello che ha speso di più, ha alzato il deficit, quando invece la colpa è della finanza, a me non convince, dirò la verità, come criterio di lettura. E sono tanti ancora i commenti di questo tipo, tanti. A me dispiace dire, perché di solito sono un amante della stampa guidata da Maurizio Marinari, il titolo dato al pezzo di Gianni Riotta dalla Pennsylvania, all'origine della rivolta tra il popolo di Trump, che odia la politica e sogna il lusso e i soldi facili, ancora una volta è un criterio di lettura razzista, perché che la gente disoccupata, si è tanto parlato dei voti popolari nella Rust Belt andati a Trump, di quelli che hanno perso il lavoro e incolpano, sbagliando secondo me, la globalizzazione, la delocalizzazione, ma questo è il mio punto di vista, però dire che questi sognano il lusso e i soldi facili perché non si vogliono impegnare è un altro criterio razzista. Ecco, i giornali italiani sono ancora pieni di tutte queste cose qua. Vi segnalo poi, prima della prima ospite, anche l'intervista di Repubblica. L'incontro per dire, con cui Scalfari racconta diventa un'intervista al Papa che vale la pena perché è a propria volta fantastico. Il Papa è, per così dire, beneficia oramai da 2 anni di questi editoriali quasi tutte le domeniche di Scalfari, in cui Scalfari si è convertito attraverso questo Papa, lo indica come una somma di San Francesco, San Domenico, San Gerolamo, tutti i padri della Chiesa, il più grande Papa rivoluzionario della storia. A me par di no. Però Scalfari così scrive. E dopo una lunga introduzione di una pagina in cui spiega come e perché Sua Santità volesse discutere con Scalfari, una pagina, la seconda invece è dedicata alla trascrizione dell'incontro con il Pontefice. E io vi invito a leggerla, perché per giustificare che è un Papa rivoluzionario, anzi un profeta, come dice Scalfari, metà dell'intervista è fatta da Scalfari che dice: bene, ci hai detto che adesso i poveri si devono impegnare in politica, quindi tu vuoi che facciano la rivoluzione? E il Papa dice, per metà del tempo, no, no, ti pare che io dico così? No, ma se tu dici che, tu è vero che dici che i poveri devono impegnare in politica? E il Papa dice, io penso a movimenti popolari, quindi i poveri, dice Scalfari, devono entrare in politica e devono scontrarsi duramente con i nemici, quindi la rivoluzione. E il Papa dice, no, la terza volta che gli viene, senti, che spiega il Papa, come si è affermato il cristianesimo, con la rivoluzione o con i martiri pazienti? Con i martiri pazienti, quindi vuoi la rivoluzione, dice Scalfari. Questo è il modo con cui, ma adesso può sembrare che io sia ironico, però leggetelo, è il Papa rivoluzionario che si difende da colui che gli affibbia questa cosa dicendo: no, io dico che bisogna, non mi piacerà Trump, perché dice io non giudico Trump, non mi piacerà Trump se fa soffrire i poveri, giustissimo che lo dica, ma quando Scalfari per una pagina intera tenta di fargli dire vuoi la rivoluzione, ecco, lo spiega, no, al massimo i martiri, noi non siamo violenti, vabbè, vuoi la rivoluzione, e allora va bene. Come vedete anche qua il giornalismo cosa fa? Prende un grandissimo personaggio, il pontefice, lo rende protagonista di una rivoluzione immaginaria, e c'è poco da fare al lettore, alla fine che cosa resterà di queste due pagine? Che il Papa vuole la rivoluzione. E sorrido perché sono vecchio abbastanza dal sapere che le mie critiche rimbalzano, mentre poi alla fine questo è il modo con cui si fa troppe volte, secondo me, il giornalismo. Allora, andiamo alla prima questione delicata, che ci fa tornare però un po' al dibattito pubblico italiano, se permettete. Perché? Perché è con noi appunto il senatore Ciro Falanga del gruppo di Alleanza Liberale Popolare Autonomie, Movimento per l'Autonomia, che è il primo firmatario appunto di questo disegno di legge sul no al carcere preventivo nei casi di corruzione e autoriciclaggio, cioè usarlo solo come estrema ratio, ma porre un limite all'utilizzo di questo istituto, che anche a mio giudizio è da anni una delle manifestazioni più concrete della crisi degli eccessi, della maniera con cui si compiono le indagini nel nostro paese. Però la domanda è: perché per i colletti bianchi indagati e accusati di corruzione, cioè uno degli aspetti più evidentemente macrofenomenici della crisi italiana? Allora, intanto grazie al senatore Falanga di essere con noi. Grazie a lei, grazie a lei. Allora, buongiorno. Ci spiega perché? Sì, innanzitutto va detto che la stampa ha affermato che questo disegno di legge andrebbe, come dire, sarebbe stato immaginato per evitare la carcerazione preventiva ai colletti bianchi, ai reati contro la pubblica amministrazione. Non è affatto così. Perché la norma. Scusi, per spiegare ai nostri ascoltatori, il titolo che ha lanciato il caso ieri era di Repubblica: per i colletti bianchi corrotti no al carcere preventivo. Sì, il titolo l'ha messo Repubblica, non l'ho messo io. La norma dice ben altro. La norma muove da una considerazione di base che non ha nulla a che vedere con i colletti bianchi, con la corruzione o con questi tipi di reati che oggi fanno, come dire, fanno presa sull'elettorato, sul popolo, sugli italiani. Io parto da un presupposto, Veda. Quando il diritto di libertà è un diritto costituzionalmente garantito. Ora, la compressione di un diritto di rango costituzionale è possibile, a mio avviso, quando vi è la necessità di tutelare un bene giuridico che sia di pari rango costituzionale. Ecco perché tutti i reati di violenza, i reati consumati con armi, sono reati che compromettono, possono compromettere la vita di un altro. Le faccio un esempio banale: il rumeno che picchia le vecchiette, commette un reato che compromette la vita del vecchietto, potrebbe uccidere il vecchietto. Allora io ho la necessità di superare la tutela del diritto di libertà e arrestarlo in carcere. Per tutti gli altri reati, non per i colletti bianchi, per tutti gli altri reati per i quali non vi è il pericolo di fuga, perché chiaramente io la lettera A della norma in discussione non l'ho toccata, tutti i reati per i quali vi può essere l'inquinamento delle prove, ebbene io non l'ho toccata, quindi se c'è rischio di inquinamento di prova il soggetto deve essere arrestato. Ma nel momento in cui si dice che può reiterare il reato e quindi per questa ragione si va in carcere, io mi domando, ma scusi, ma se lo mandiamo agli arresti domiciliari, mi dice qualche commentatore che ha fatto appunto rumore su questo disegno di legge, se va agli arresti domiciliari un truffatore, ebbene, qual è il rischio che possa reiterare il reato? Peraltro, guardi, c'è la norma successiva, il 275, la quale dispone che il giudice deve utilizzare lo strumento della custodia cautelare in carcere soltanto quando ritiene emotiva nel provvedimento che non vi sono misure alternative idonee a garantire che il reato non venga reiterato, Quindi si è voluto dire i colletti bianchi, non i colletti bianchi, ma io non è una norma che mira a tutelare i colletti bianchi. Io è una norma di garanzia che mira ad evitare il carcere a quel 50%, e dico 50%, di cittadini che vengono arrestati in via cautelare e che poi vengono dichiarati innocenti. Ma insomma, la mia battaglia nasce e muove da quando trentenne da radicale facevo le battaglie insieme a Pannella per Tortora, perché per me l'esperienza carceraria nelle carceri italiane che io visito, e quindi tutti i commentatori dovrebbero prima andare a visitare le carceri italiane per capire quale è l'effetto che produce una carcerazione preventiva, peraltro soventemente c'è nel 50% dei casi, ad innocenti che dopo 7-8 mesi di carcere si sentono dichiarare dallo Stato la loro innocenza. Allora questa misura cautelare preventiva che vige nel nostro paese, ma che in altri paesi non esiste, cioè non c'è questo istituto, o perlomeno non è usato nei modi così come viene usato nel nostro paese. Lei ricorderà che in epoca di Tangentopoli la misura cautelare venne utilizzata come strumento di indagine, si è persa la sua ma non solo viene arrivata a tempi di Tangentopoli, viene usata ancora, ma i pubblici ministeri spesso sono anche ancora intervenuti spessissimo spiegando, naturalmente non ammetteranno mai che è così, che però pur tuttavia ci sono proprio fattispecie di reato. Questo è il motivo per cui scatta il riflesso condizionato. Io non voglio giustificare chi l'ha messa solo, come se facendo credere a chi leggeva che lei la chiede solo per i colletti bianchi, perché non è così. Effettivamente su questo ha ragione il senatore Falang, non è che la chiede per questa fattispecie sì e per quella no, chiede una limitazione generale non l'abolizione della custodia cautelare, ma interveniamo per definire meglio i casi in cui si usa, piuttosto che invece dare i domiciliari invece che la custodia in carcere. Ma detto questo, ci sono tipi di indagini sui quali le catene collusive sono tali per cui i pubblici ministeri dicono: signori, noi se ci toccate le intercettazioni e la custodia in carcere diventiamo meno potenti nelle indagini. E questo è un grande dibattito, cari ascoltatori, perché io vedo che molti di voi in realtà dicono: ho capito, ma l'effetto sarebbe comunque quello paventato da Repubblica, cioè colletti bianchi corrotti, meno forti pubblici ministeri nei loro confronti. Allora, intanto grazie al senatore Falanga che ci ha spiegato come appunto il disegno di legge non sia ad hoc ma intervenga su una misura generale. Poi il dibattito resta aperto, perché lo vedo dalle vostre azioni. Mi dispiace che un ascoltatore mi copra di insulti perché oso parlare di Scalfari e non avrei i titoli. Mi dispiace, rispetto alla sua opinione, ma io invece penso anche di avere i titoli per fare il mio mestiere criticando. Guardate, io non sono raccomandato a nessuno, sono qui perché faccio ascolti. Quando non faccio ascolti o criticherò troppo non ci sarò più, ma quello è il giudizio per me e io spero di svolgerlo nel rispetto di voi tutti. Che di Giannino tu devi stare muto, spegni, allora questa è la mia idea, oppure cambia stazione. Stare muto lo dicono i fascisti, questa è la mia opinione. Ci sono i fascisti scalfariani, evidentemente, perché lei la pensa così. Ma rispondo, non piccato, ma perché mi irrita questa cosa di stai muto. Ah, stai muto, ma dove l'avete imparato che si dice stai muto? Però detto tutto questo, altro esempio, io ho classificato 10 giornali oggi che dicono inizierà coi tagli le tasse ai ricchi Trump. Solo un giornale spiega qual è, sia pure molto sinteticamente, come è giusto, la proposta sui tagli fiscali di Trump. Vi invito ad approfondirla, perché è solo per i ricchi, cioè abbassare l'aliquota marginale? No, naturalmente no. Far passare da 7 a 3 le aliquote dell'imposta sulle persone fisiche, e per ciascuna di esse l'imposta scende, quindi compresa la più bassa, poi quella che sarà la media e quella più alta. Se lo faranno vedremo, e io stesso dico sì, un bene, ma se mi fai deficit aggiuntivo esplosivo non mi va bene. Ok, ci sentiamo tra un minuto. State ascoltando un programma offerto da JP Morgan Asset Management. Eccoci qui, tornati in diretta alle 8.46, primi 4 secondi. Allora, c'è qualche ascoltatore che ci ha chiamato, cominciamo con Paolo. Paolo da Torino, prego. Buongiorno Oscar, buongiorno. Eccoci. A lei. Senta, brevemente sul discorso di Trump, sì. Mi sta bene il discorso dell'allineamento dei mass media, dei giornali, tutti a favore della Clinton, tutti contro Trump. Mi sembra un'operazione, diciamo così, più di facciata, di leccaculismo, mi permette il termine, più che di manifestazione di libero pensiero. Non le giustifico, ma le capisco. Ma le voglio fare una domanda. Io la risposta ce l'ho già, ma voglio sentire la sua opinione. Ma perché tutte le volte che alla sinistra mondiale italiana, mi permette la terminologia sinistra, giusto per intenderci, quando non va bene a lei deve insultare la controparte? Non parlo solo delle manifestazioni di piazza che si stanno svolgendo in America, parlo proprio anche a casa nostra, dei nostri giornali, il Gramellini a cui faceva riferimento ieri, l'ignoranza al potere, successe con Reagan, successe con Berlusconi, succede ora con Trump. Ma perché tutte le volte che non va bene a loro, i cittadini della controparte, chiamiamola così, sono ignoranti? Io sono stufo di essere insultato da questa gente. Allora, sono stufo di essere insultato, Paolo, da questa gente. Lo capisco, però se pensiamo che sia un difetto del dibattito pubblico e l'effetto di un riflesso condizionato che si chiama superiorità etica della sinistra. Superiorità etica della sinistra è una ragione storica, culturale, è convinta che la redistribuzione venga prima della produzione, e chi non pensa alla redistribuzione come prima cosa vuol dire che è un indifferente sociale, quindi su questo fonda il culto della propria superiorità etica. C'è una ragione storica, però Per chi la combatte, io sono tra chi combatte questo riflesso condizionato, anche se ne capisco le ragioni dell'evoluzione storica, non devo a mia volta contribuire a farlo dipingendo loro come se fossero no, una banda di persone che si considerano solo superiormente etici per avere un fondamento al potere e avere consenso su questo. Alcuni di loro, leader politici, sì, lo coltivano per questo, ma conosco abbastanza da vecchio la società italiana per sapere. Io sono nato in un quartiere operaio dove il Partito Comunista prendeva più del 60% dei voti, quando andava bene prendeva più del 70%. Ecco. E loro erano convinti di essere la storia che avanzava il progresso. Non posso dimenticarmi che ci sono pezzi importanti della storia del Novecento che si spiegano perché questo senso di superiorità etica ha camminato sulle gambe di milioni di persone. Davvero, anche i rivoluzionari che facevano le rivoluzioni d'ottobre erano convinti di esserlo. Poi la realtà dimostra un'altra cosa. Quindi io da una parte la capisco, dall'altra so che è una lotta dura quella culturale, che però non deve cadere nell'errore, per esempio berlusconico, di dipingere gli altri esattamente come gli altri dipingevano lui. Lui veniva dipinto, per certi versi avendo anche ragione, intendiamoci, come uno spregiudicato, e però era vero che si faceva la legge ad persona, ma lui diceva: questi sono i mangiatori di bambini. Ecco, evitiamo questo errore. Però questo problema resta ancora aperto nella società italiana, in tutto l'Occidente, ma la società italiana resta apertissimo. Basta guardare i giornali tutti i giorni. Si chiama egemonia culturale, e l'egemonia culturale è una cosa che solo con la cultura nel tempo potrà consentirci di dire che chi non ha i titoli etici della sinistra, cioè dire che bisogna redistribuire attraverso enormi tasse e uno Stato pesantissimo che crede di sapere meglio di noi cosa fare dei nostri soldi, la battaglia è lunga, perché per il momento scatta il riflesso condizionato. Tanto è lunga che la destra in Italia ha detto e ha fatto le stesse cose della sinistra una volta al governo. Ha promesso le aliquote di Trump, che saranno 3, dovrebbero essere al massimo al 25% sulle persone fisiche, ma si abbassano anche le altre 2, quindi non è solo per i ricchi in taglio, però poi in Italia non le ha fatte. Se Trump fa la stessa cosa negli Stati Uniti, credo che non sarà dopo 20 anni ancora invocato in politica come per Berlusconi. Però vediamo. Rocco, Andrea dalla provincia di Treviso. Rocco. Sì, buongiorno a tutti. Mi conceda 30 secondi per dire che rispondere anche al signore che è intervenuto prima dicendo che le offese purtroppo ci sono da ambo le parti. E il ruolo di persone che si indignano, come mi indigno io, pur appartenendo alla parte non vicina a lui, io combatto coloro i quali, quelli vicini a me di sinistra, offendono e denigrano gli altri. Per cui prima di tutto dobbiamo fare questa lotta culturale nei confronti dei nostri vicini, perché solo così la società può progredire. E io condivido la sua posizione, cioè ieri nessuno, molti non avrebbero mai scommesso sul fatto che Obama, che è stato durissimamente attaccato e che anche lui ha pesantemente criticato, ma meno pesantemente di quanto Trump attaccasse lui, ieri hanno fatto un incontro istituzionale nel quale Obama è stato il primo a dire: un incontro eccellente, lavorerò bene alla transizione. In Italia non avremmo avuto qualcosa di simile. In Italia si sono negati la transizione presidente del consiglio del PD uscenti, agente del PD entrante. Ricoletta, ve la ricordate la faccia? Ecco, l'esempio che io faccio da questo punto di vista è: viva l'America. Allora, un flash per porci una domanda. La Corte Costituzionale ha stabilito, su un'istanza sollevata da un giudice, rispetto alla norma che continua a impedire di dare il cognome della mamma ai figli, che la norma è anticostituzionale. E il Parlamento da anni ha tentato di risolvere questo problema, nel senso che alla Camera si era votato concedendo questo diritto. Io speravo di averne diritto entro la mia seconda figlia, ma invece poi il Senato ha fatto arenare la cosa, e abbiamo con noi esattamente il senatore del PD, relatore a Palazzo Madama del testo di legge sui cognomi dei figli, per chiedergli: c'è speranza, visto il calendario parlamentare, adesso c'è il referendum, poi c'è la sessione di bilancio e poi bisogna cambiare la legge elettorale, ma senatore Lo Giudice, c'è speranza che al di là della pronunzia della Corte arrivi anche la conferma con un atto legislativo equilibrato? Grazie di essere con noi, senatore Lo Giudice. Grazie a voi. Naturalmente sì, la risposta è sì, c'è speranza. Non solo la sentenza della Corte aiuterà a accelerare i tempi. Ma perché si è ritardata? Quel disegno di legge è rimasto 2 anni fermo prima di essere di iniziare l'iter in commissione, cosa che però è successa un paio di mesi fa, è successa già in settembre. Perché? Perché probabilmente perché il Senato è stato impegnato su un altro tema che riguardava le relazioni familiari, sì, come le unioni civili, e per unioni questo civili. Insomma due materie sullo stesso... Ma dovesse adesso formularci una previsione, un cronoprogramma, secondo lei, concreta però, secondo lei che speranza entro quando c'è? Noi abbiamo già fatto la discussione in aula, quindi nelle prossime settimane abbiamo in programma un pomeriggio di audizioni con degli esperti per poi decidere se fare qualche piccola modifica al testo, e in questo caso però dovrebbe ritornare alla Camera per un'ultima lettura, oppure se approvare il testo così com'è. Io sono convinto che la sentenza della Corte Costituzionale, di cui non conosciamo ancora le motivazioni, evidentemente conterrà un invito al Parlamento a modificare... Esatto. E che in base a quello chi decide sul calendario capisca che... E questa secondo me è una grande battaglia di civiltà, io lo sostengo, queste sono le cose che testimoniano che facciamo passo avanti, lo dico davvero. Anche perché, come ci ha già detto la Corte di Cassazione nel 2006, si tratta di un retaggio di una concezione patriarcale delle relazioni familiari del tutto fuori sistema anche rispetto all'ordinamento nazionale, comunitario e internazionale. Esattamente. Nel 2014 la Corte proprio Europea, perché è così che il Parlamento si adegue. Io ringrazio il senatore Lo Giudice, torneremo con lui naturalmente a monitorare la questione, e vi ricordo, cari ascoltatori, che per le questioni concrete, come funziona adesso dopo la sentenza della Corte e prima che ci sia una legge, verrà ancora approfondito nel corso della mattinata con la nostra Nicoletta e Deborah Cuore Denari su questo tema, procedure, come fare ora per cambiare cognome, quindi ci occupiamo di questo, non solo degli azzardi Trump, del fatto che viva viva la Procura Generale a Milano, io come vedete difendo i magistrati che invece di dar retta ai PM che stavano